dale, dale, dale, dale, quinde. Dale, dale, dale, quinde, dale, dale, dale, dale, quinde. Dale, dale, dale, quinde, dale, dale, dale, quinde.